Questa è Carnage volume 2, Six e special guest Bob. Passa il gancione, questa roba fa volare, me l'ha detto Taricone. Ti gonfia come una ruota di scorta, il cuore pompa THC dalle OCP nella orta. Vedi i mostri, ti smostri, non dimostri intelligenza. Fumare quella merda, tu della coerenza non ne sei a conoscenza. Alla tua faccia mi fumo anche la resina. Vai Bob, passami la weed e rollo questa canna, la accendo e me la fumo con Six. Dalla tachicardia ci rimango. Oh cazzo, è così buona che mi chiede un tiro anche mango. Vado in cameretta e se non c'è più, al posto di una canna fumo una canna di bambù e vado lassù dove il cielo sempre più blu. Ho fumato troppo, dai tirami su, quindi entro nel viaggio. Iniziano le paranoie, tutto un disagio, ma hai delle gioie, tutte troie. Mi chiedi se è pessimista, ti rispondo abbastanza. In sostanza ogni cosa la guardo dal lato della speranza. Mi hai scoperto. Instagram a sta minchia, sei un cane che abbaia e che rinchia e basta. Six è crudele, io e Bob fumiamo il tritolo, lo coltiva zio Michele. Te la piazzo raso terra, tiro come Beckham. Mi creo haters, calcio merda. Concludo la strofa con una citazione. Tagliati i capelli zio e cercati un lavoro, coglione. E questo era solo un assaggio, presto il singolo fuori in studio. Questa era una preview. Buon proseguimento del disco.